Economia in pagina. Buongiorno, benvenuti ai nostri ascoltatori a questa puntata dedicata ai libri di economia. Oggi parliamo con Daniele Marini. Buongiorno Daniele Marini. Buongiorno. Daniele Marini è direttore scientifico della Fondazione Nord-Est e ha curato un libro scritto a più mani, peraltro Fuori dalla media, percorsi di sviluppo delle imprese di successo, edito da Marsilio appunto per la Fondazione Nord-Est. È un libro, come dicevo, scritto a più mani, che raccoglie molti interventi di analisti soprattutto dell'economia industriale, ed è un libro dedicato, come dice il titolo, alla media impresa, le medie imprese che sono una realtà particolarmente importante nell'economia italiana, un po' la spina dorsale della crescita economica che c'è stata e che speriamo ci possa ancora essere. Ecco, Daniele Marini, qual è la fotografia di queste imprese? Proprio il primo capitolo dice l'impossibilità di essere normali. Perché? Perché appunto queste imprese, le medie imprese, che possiamo catalogare fra quelle che hanno dai 50 ai 250 dipendenti, grosso modo, sono imprese che hanno segnato in questi ultimi anni delle performance economiche di assoluto rilievo e sono state quelle che hanno in buona misura trainato il mercato nazionale, non solo all'interno ma soprattutto all'esterno attraverso i processi di internazionalizzazione, e quindi in questo senso sono imprese, medie imprese, che però hanno fatto dei percorsi fuori dalla media, cioè quindi percorsi, diciamo così, particolarmente interessanti e innovativi. Sono presenti soprattutto nel nord del paese e anzi diciamo che la loro presenza riguarda appunto il nord, un po' soprattutto poi anche l'Emilia Romagna e arrivano a lambire le Marche e l'Abruzzo. In questo senso la configurazione geoeconomica che si viene a stabilire è quella di una sorta di nord centro adriatico come la nuova area che traina e ha trainato, e speriamo anche in futuro, la ripresa e l'economia del nostro paese. Però si parla in questo libro di nord, cioè non c'è solo un nord complessivo, ma tante magari piccole aree in questo nord in cui l'impresa si è trovata meglio, in cui ha avuto maggiori possibilità di crescere. Il nord-est in questo senso era indicato negli anni passati come un elemento trainante, un fattore tra i tanti fattori che potevano portare al successo l'impresa. Perché si parla di nord al plurale? Perché se da un lato è vero che queste medie imprese segnalano ormai oggi delle problematiche comuni, pensiamo per esempio a tutto il tema delle infrastrutture, della carenza delle infrastrutture, piuttosto che le difficoltà che queste imprese trovano nei rapporti col sistema paese più in generale, e dall'altro lato però contemporaneamente noi troviamo che la presenza di queste imprese segnalano storie e contesti molto diversi fra di loro. Pensiamo per esempio alle medie imprese che sono inserite all'interno dei distretti industriali, pensiamo però anche a medie imprese che invece sono nate e sono cresciute al di fuori dei distretti, che so per esempio l'area padana, piuttosto che in alcune valli della zona alpina. Ecco, e quindi in questo, piuttosto che nelle periferie delle metropoli e soprattutto nelle realtà del nord-ovest. E quindi in questo senso non abbiamo più un nord uguale, indistinto, ma abbiamo tanti nord diversi che appunto hanno un elemento comune fra di loro, ma nello stesso tempo hanno anche molte specificità. Ecco, in questi percorsi di sviluppo delle imprese di successo, che ricordo il sottotitolo del libro Fuori dalla media, curato da Daniele Marini, ci sono alcuni punti forti che sono nello stesso tempo dei punti positivi ma anche degli elementi di criticità. Per esempio la questione dimensionale: essere media impresa può aiutare il vantaggio competitivo, però una dimensione più larga per l'impresa può aiutare a raggiungere delle economie di scala maggiori. Ecco, in Italia crescere è difficile. Questo è vero per le medie imprese, Daniele Marini? Sì, per carità. Allora, da un lato è vero che in tutti i paesi le imprese quando nascono piccole, però diversamente da tutto il resto dei paesi sviluppati, nel nostro, in Italia, le imprese tendono a rimanere piccole, per un insieme di questioni che sono legate da un lato alla legislazione vigente e dall'altro anche al fatto che da noi esiste una imprenditorialità diffusa che in qualche modo frena la possibilità e la capacità delle imprese di aggregarsi, di mettersi insieme e di crescere. La storia di queste imprese di successo però ci dice anche un'altra cosa, e cioè che sicuramente la dimensione di impresa è può essere un ostacolo alla competitività, all'entrare, diciamo così, nei circuiti più virtuosi dell'economia a livello nazionale e internazionale, però nello stesso tempo, se questa è una regola generale vera, dall'altro lato diverse di queste imprese ci insegnano che non è tanto importante crescere solo dimensionalmente, ma è per esempio molto importante entrare nelle filiere internazionali. E quindi si può rimanere anche, diciamo così, di dimensioni contenute, anche se chiaramente ci vuole comunque una certa dimensione di impresa per essere competitivi, però nello stesso tempo io posso rimanere all'interno di una certa dimensione, ma se mi alleo, se mi aggrego, se entro in percorsi e consorzi che hanno rapporti con i mercati esteri, ecco che allora riesco a individuare un filone che può, un filone produttivo che può essere importante per la mia crescita. Ecco, un altro fattore ambivalente che può essere sia positivo sia negativo a secondo come venga interpretato dalla singola impresa è il fattore della famiglia, viene chiamato la famiglia imprenditoriale. In piccole imprese sono soprattutto imprese familiari, imprese che si riconoscono in un imprenditore, nella capacità, nella passione di questo imprenditore, che però soprattutto in questi anni stanno venendo a maturazione e stanno andando in pensione i vecchi imprenditori. Quindi c'è un problema di passaggio generazionale. Questo è più un fattore di potenziale sviluppo oppure di potenziale frenata per questo tipo di impresa? Daniele Marini. Qui bisognerebbe rispondere salomonicamente in qualche modo, nel senso che dipende. Nei casi che noi abbiamo analizzato di queste medie imprese, il tema della famiglia imprenditoriale ha saputo gestire le diverse situazioni in modo positivo, e quindi diversamente da quello che si riteneva solo pochi anni fa, e cioè che la famiglia imprenditoriale potesse essere un ostacolo, in queste imprese la famiglia ha saputo giocare un ruolo invece positivo. Da un lato perché ha investito nell'azienda, nei processi innovativi all'interno dell'azienda, e dall'altro perché ha saputo gestire in modo ancorché variegato il tema del passaggio generazionale e quindi, in senso più esteso, della continuità di impresa. E lo ha gestito appunto in modi molto diversi tra di loro, chi attraverso processi di tutoring delle giovani generazioni, chi affiancando per esempio manager presi dall'esterno e che quindi sono entrati e hanno lavorato gomito a gomito con le nuove generazioni, chi invece comunque favorendo il passaggio generazionale in modo positivo, senza quindi conflittualità interne. Ecco, quindi sono state adottate diverse strategie, tutte però hanno visto la famiglia, la capacità della famiglia di reinventarsi anche all'interno dell'impresa con ruoli nuovi. Questo libro, anzi molti capitoli di questo libro hanno anche molti dati presi dall'indagine, il rapporto l'Italia delle imprese, il sondaggio nazionale degli imprenditori che ormai ogni anno e da 5 anni accompagna appunto un'analisi che realizza la Fondazione Nord-Est per il Sole 24 Ore. Com'è cambiata la realtà di queste imprese in questi ultimi anni, anche sulla base di questo rapporto? Daniele Marini. Sono cambiati innanzitutto perché queste imprese sono accresciute da un lato, da un punto di vista sia dimensionale che soprattutto per quello che riguarda la loro capitalizzazione, quindi come dire si sono maggiormente strutturate al loro interno, questo per un verso, e dall'altro si sono progressivamente proiettati sui mercati internazionali, quindi hanno abbandonato le politiche, le strategie, diciamo così, più tipicamente delocalizzative, e invece hanno abbracciato delle strategie legate a vere e proprie multilocalizzazioni o internazionalizzazioni, ovvero l'intendere la presenza sui mercati esteri non soltanto e non tanto come mercati di approvvigionamento, perché lì si facevano dei prodotti o dei semilavorati che venivano poi reimportati, ma piuttosto utilizzare le nuove aree di presenza come aree da presidiare da un punto di vista del mercato e poi nel tempo utilizzare anche queste come un trampolino di lancio per rivolgersi ad altri mercati ancora. Ecco, quindi sono medie imprese che si comportano da grandi, per concludere. Sì, come si usa dire, sono delle multinazionali tascabili che quindi utilizzano le strategie simili, diciamo così, alle multinazionali, ma declinandole sulle proprie capacità, sulle proprie risorse, con un'attenzione sempre molto attenta da un lato al territorio in cui sono inserite e dall'altro alla loro comunque continua identità industriale. Sono imprese su cui l'Italia può e deve contare per riprendere appunto la strada della crescita. Grazie a Daniele Marini, che ha curato il libro Fuori dalla media, percorsi di sviluppo delle imprese di successo, edito da Marsilio, 340 pagine per 23 euro, un libro che costituisce un rapporto, in fondo un'analisi, una carta d'identità della media impresa italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito, l'appuntamento è la prossima settimana.